Fidati di me, non sono un Latin lover. Canto alle donne, ma parlo di me. Rido perché tu mi chiami Latin lover. Io sono un amante, senza una donna con sé. Vuoi ballare con me, senza dire che poi ci proverò con te. Vuoi parlare con me, senza dire che poi giocherò. Se gli amori passati non contano niente, sono lontani da noi gli errori che ho fatto col senno di poi. Tu baciami adesso se vuoi, amore, baciami adesso se vuoi. Fidati di me, un Latin lover non canta l'amore, lo vuole per sé. Ecco perché non sono un Latin lover, io canto l'amore sì, ma è solo per donarlo a te. Vuoi ballare con me, senza dire, dire che poi ci proverò con te. Vuoi ballare con me, senza dire che poi io giocherò. Giocherò se gli amori passati non contano niente, sono lontani da noi. Quanti errori che ho fatto col senno di poi. Baciami adesso se vuoi, amore, baciami adesso. Se vuoi, ti prego baciami adesso se vuoi, amore baciami adesso se vuoi. Thank you.